Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera e benvenuti a Smart City. È il primo ascensore a levitazione magnetica del mondo ed è stato installato in Italia sulla base di una tecnologia messa a punto da un gruppo di giovani imprenditori italiani che avevamo conosciuto per la prima volta nel 2016, quando si erano distinti nella competizione internazionale di idee per il treno super veloce Hyperloop, il treno di Elon Musk. Si erano distinti grazie a una configurazione innovativa di magneti che permette appunto la levitazione magnetica per mezzo di quelle che noi saremmo portati a chiamare delle normali calamite, per capirsi. Allora, sulla scorta di quella intuizione è nata poi una startup che si chiama IronLev e noi diamo il benvenuto al cofondatore di IronLev, Luca Cesaretti. Buonasera, buonasera Luca, bentornato. Salve, buonasera a tutti. Allora, intanto ti chiedo di ricordarci, diciamo, le caratteristiche chiave, quelle principali della vostra soluzione per la levitazione magnetica. Perché ricordiamoci, ci sono delle tecnologie per la levitazione magnetica, alcune sono basate per esempio sull'uso di magneti superconduttori, quindi con una serie di complicazioni dovute al fatto che bisogna raffreddare questi magneti quasi allo zero assoluto o comunque a temperature di 200 gradi sotto zero. Poi ci sono altre tecnologie come il VacTrain, che è una levitazione magnetica che però funziona solo quando l'oggetto è in movimento ad alta velocità e non funziona quando l'oggetto è fermo. E poi c'è la vostra. Sì, allora la tecnologia di levitazione IronLev è una tecnologia di levitazione magnetica passiva che sfrutta le proprietà di magneti permanenti, i quali creano un campo magnetico e grazie a una particolare configurazione di questi magneti e alla forma e alla geometria del pattino, che è l'elemento che scorre sulla rotaia, si crea questo campo che è confinato all'interno della geometria del pattino stesso e consente di creare questa forza magnetica in grado di sostenere il carico ed eliminando quindi ogni attrito. Quindi non c'è un campo magnetico all'esterno, questo può sembrare un dettaglio, ma insomma può dare fastidio un forte campo magnetico attirando oggetti banalmente, no? Assolutamente sì, la possibilità, la caratteristica di confinare il campo magnetico all'esterno è fondamentale per garantire una sicurezza sia per gli operatori ma soprattutto per i passeggeri o per in generale gli utilizzatori della tecnologia. Ecco, e poi appunto tutto è contenuto all'interno di questo pattino, una configurazione di magneti che sta all'interno di un pattino che può scorrere, se ho ben capito, su una qualunque guida, purché sia di ferro, d'acciaio, sia ferro magnetica, il materiale deve essere giusto, ma quando parliamo di qualunque guida intendiamo anche gli attuali binari del treno o del tram, quelli che già ci sono per terra, è corretto? Sì, sì è corretto, infatti il nome della tecnologia IronLev nasce proprio dal termine Iron, che è la caratteristica peculiare della tecnologia, cioè la possibilità di essere accoppiata con qualsiasi rotaia in materiale ferromagnetico, quindi anche in comune acciaio. Questo ne consente di avere un'enorme flessibilità e versatilità di applicazione, perché è possibile applicarla in qualunque contesto nel quale si ha una rotaia, come ad esempio nel caso ferroviario con le comuni rotaie ferroviarie. Ecco, l'applicazione di cui parliamo invece è un ascensore. Ecco, qui dove entra in campo la levitazione magnetica? In questo caso la levitazione interviene in quello che è lo scorrimento verticale della cabina. Oggi lo scorrimento avviene comunque su delle guide, le quali però scorrono e strisciano, sono degli elementi plastici che strisciano su delle rotaie, anche qui delle rotaie, delle standard rotaie in acciaio. Mentre nel nostro caso andiamo a sostituire questi elementi, questi pattini, con la tecnologia di levitazione magnetica e così si ha un ascensore a levitazione magnetica che consente di muovere masse molto importanti come la massa della cabina con degli attriti in sostanza che vengono eliminati. E questo ovviamente permette di risparmiare energia, rumore, vibrazioni ed energia. Assolutamente sì, la possibilità di eliminare il contatto dovuto allo sfregamento, allo strisciamento dei pattini lungo le rotaie, le guide di scorrimento, consente da un lato di avere un sistema molto più silenzioso e molto più stabile anche in termini di vibrazioni. Quindi puoi immaginarti una nuova esperienza di viaggio dove il passeggero all'interno della cabina non percepisce più quelle comuni vibrazioni che si sentono, chiaro, all'interno di un ascensore. Ma soprattutto il vantaggio è in termini di efficienza. Oggi è fondamentale avere dei sistemi di trasporto sempre più efficienti e grazie al nostro sistema è possibile in sostanza quasi dimezzare il contributo, l'energia richiesta per muovere la, chiaro, cabina. Chiaro, molto perché? Chiaro. Perché si elimina tutto l'attrito e quindi tutta quella dissipazione creata dallo scorrimento sulle guide. Dunque Luca, qual è il percorso che state facendo? Perché se non sbaglio ormai ci sono i primi prodotti. Sì, dopo i primi anni di ricerca ci siamo focalizzati per lo sviluppo delle prime applicazioni che oggi sono diventate dei prodotti. Prodotti sia sul mondo industriale, sistemi di scorrimento all'interno di impianti industriali, sia nel mondo dell'architettura con lo sviluppo di serramenti a levitazione magnetica o di porte a scorrimento a levitazione magnetica. E per noi l'ascensore rappresenta il primo passo verso il mondo dei trasporti. Perché insomma l'obiettivo è quello lì, fare tram, fare treni a levitazione magnetica. Grazie, allora grazie Luca Cesaretti e in bocca al lupo come sempre. Grazie, grazie a voi. Cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per questa sera, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.